Il problema è che questa è la vita vera. E capita veramente che una donna, per quanto sia confusa, possa essere sincera e che realmente ti voglia bene e nutra dei sentimenti per te, ma non voglia abbandonare l'uomo con cui sta. E anche se mi sforzo di non farlo, io la capisco. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Entro in una stanza dove regna il caos. Il capo è seduto dietro la scrivania, nascosto da pile di documenti. Ha un fisico asciutto, il volto serio, l'aria imperturbabile. Si alza, fa un inchino e si presenta. Sono Kazufumi Kuni. Kazufumi è un evaporato. Un giorno è uscito dall'ufficio come al solito, ma non è mai tornato a casa. È scomparso nel nulla, come altre migliaia di persone in Giappone, dove il fenomeno degli evaporati esiste da secolo. Nel suo ufficio squilla continuamente il telefono. Kazufumi solleva il ricevitore e riattacca subito. Non vuole essere disturbato mentre cerca di rimettere insieme i pezzi del suo passato. Ha un'attività segreta. La sua azienda è una specie di agenzia di fughe. A volte i suoi furgoncini trasportano persone, oltre che cose. Persone che vogliono sparire come ha fatto lui. L'evaporatore è un evaporato. Kazufumi ha aiutato più di 100 persone a sparire nel nulla. Sono loro che vengono da lui, attraverso il passaparola, e grazie alla sua formula, che dice traslochi di ogni tipo. Al telefono parlano di traslochi, mi dice, ma quando ci chiedono di venire alle 8 di sera oppure a mezzanotte, capiamo subito quello che vogliono. Kazufumi non accetta tutte le richieste, sottopone i clienti a un interrogatorio serrato. Rifiuta il 90% delle domande, ma quando conclude un accordo, agisce molto rapidamente. Al tramonto arrivano strani traslocatori con lenzuola e tende nere. Coprono le finestre, imballano i mobili in fretta. I clienti ci dicono sempre che non hanno niente da portare via, ma quando arriva il momento vogliono portarsi via tutto, compresa la lavatrice. Noi cerchiamo di essere discreti e rapidi. Di solito i clienti dell'evaporatore sono celibi, sono degli impiegati modello, ma ci sono anche persone che fuggono con tutta la famiglia. Secondo Kazufumi bisogna restare almeno 5 anni in silenzio. Lui ne ha aspettati 15 prima di telefonare ai genitori. Aveva paura. Temeva che rifiutassero di parlargli, che fossero in cattiva salute, che avessero subito delle minacce per colpa sua. E invece no, lo avevano perdonato. Kazufumi non ha avuto la forza di rivederli, ma si è sentito meno in colpa. Sono le 16:10 minuti, questa è Radio 24 e quello che ho appena letto sono i passaggi di un reportage che avevo trovato qualche tempo fa su una rivista italiana che però riporta un articolo di una rivista, di un magazine francese, e parla proprio di questi personaggi, di queste persone più che personaggi, che alla fine di un'esistenza condotta con due vite, per lo più persone che avevano una doppia vita, che non riuscivano più a portare avanti, o semplicemente persone invece che avevano dei grossi debiti, decidono di sparire nel nulla. In Giappone li chiamano evaporati, un po' perché appunto spariscono come il vapore nell'aria, ma soprattutto perché moltissimi di questi, secondo questa tradizione, secoli fa sparivano in una zona del Giappone in cui ci sono dei bagni termali, e andavano per lo più a fare dei lavori in quella zona, e a metà strada tra appunto andare a fare un lavoro molto lontano da dove stai, dove non ti conoscono, e invece proprio il concetto di evaporare, no? Di sparire nel nulla. Oggi mi sarebbe piaciuto parlare per tutta la puntata degli evaporati, e invece no, ho voluto solo leggervi questo passaggio per parlare in maniera in realtà poi un po' più morbida di tutte le persone che hanno una seconda vita e che non per forza evaporano, altrimenti avremmo chi l'ha visto alle calcagna sin da subito, ma semplicemente per un certo periodo della loro vita vivono due vite, una delle quali è la vera vita che loro vogliono. Allora metto subito le cose in chiaro: non mi interessano persone che hanno l'amante, non mi interessano persone che hanno una moglie, dei figli e poi hanno la seconda vita e c'hanno l'amante che vedono una volta a settimana, una volta al mese. Non è di quelle seconde vite che voglio parlare oggi, è delle seconde vite di Max, ad esempio, che mi scrive: io ho avuto anche tripla vita, comunque le mie principali sono state skipper e studente in medicina. Skipper, attenzione, non uno skipper qualunque, ma aveva una sua società di brokeraggio. Dopodiché sono stato medico e informatico con una mia società di produzione software di intelligenza artificiale. Max è uno di quelli che pronti via crea società. C'è ci sono quei tipi di persone lì, no? Che non, credo sia un'attitudine. Appena puoi, crei una società. Il mio amico Tex mi ricordo, aveva creato una società di fotocopie all'università. Non l'ha finita perché è stato pure cacciato. Oppure Francesca che dice: al mattino sono quadrata come una scatola, lavoro in ufficio, in mezzo ai numeri. E invece nel pomeriggio mi trasformo in una tavolozza di colori, mi dedico alla creazione e realizzazione di moda. 800240024 349-238-6666. Persone che hanno due vite, nel senso che ne hanno una che è la loro e che per lo più è dovuta perché fanno un certo tipo di lavoro, un certo tipo di mestiere e vivono in un certo posto, e l'altra invece che magari è la sera, magari è il pomeriggio, magari nei fine settimana, che è l'altra parte della loro vita, che forse è quella più desiderabile. E chissà, magari sono lì per passare da una parte all'altra. Capita spesso e volentieri con gli istruttori, no? Ci sono quelli che fanno gli istruttori di vela in estate. Vabbè, il vero stereotipo è istruttore di tennis in estate, istruttore di sci d'inverno. Anche quelli valgono. 349-238-6666. Oppure siete, che so io, bancari e poi siete istruttori di paracadute. Non so, magari spesso capita che ci siano persone che hanno voglia proprio di mantenere questo dualismo, no? Conosco una persona che fa il conduttore radiofonico e lo psicologo e non ha alcuna intenzione di smettere di fare né l'una né l'altra. Insomma, se vi è mai capitato di avere un'altra vita, che era la vostra vita, quella vera, quella desiderabile, 80024 0024 349-238-6666. In realtà è vero, lo stereotipo vero era quello dell'istruttore di tennis e l'istruttore di sci. Però lo stereotipo ufficiale ultimamente è tipo studentessa e webcam girl, no? Paolino Corleone, dici di sì, non ho capito per quale motivo. Conosci le studenti? Perché è vero. 80024 0024 349 238 6666. Quella che molti di voi ormai hanno definito la mia soap opera personale, continua. Insomma, Nathalie mi ha detto che non vuole perdermi, ma chiama Italo. E queste parole mi sono sembrate uscite da una soap opera. Ora mi dirà che sono il padre di suo figlio, ma che mia madre è nonna di sua sorella e che Italo in realtà è mio nonno, ma solo perché ha fatto un'operazione per cambiare sesso, perché prima era una ballerina di lap dance, e che tutti e due siamo comunque innamorati di qualcun altro, che scopriremo nella prossima puntata. Il problema è che questa è la vita vera e che quindi capita realmente che una donna, per quanto sia confusa, sia sincera e che realmente ti voglia bene e che nutra dei sentimenti forti per te, ma non voglia abbandonare l'uomo con cui sta. E anche se mi sforzo di non farlo, io in fondo la capisco. E anche se vorrei solo odiarla, mi rendo conto che potrei essere al suo posto. Perché non è sempre tutto semplice. Non è sempre solo amore e odio, bene e male, bianco e nero. Non viviamo nel Signore degli Anelli o nei film western. Viviamo in una massa oleosa di emozioni, di sentimenti che si confondono e che non riesce a guidare. E sono tutti reali, anche quando si contraddicono. Mai giusti e mai sbagliati. E quando speriamo di fuggirli con un bel matrimonio rassicurante o magari facendoci monaci, arriva sempre un giorno in cui succede qualcosa che non puoi controllare. E quindi sì, io Nathalie la capisco, ma non c'è nulla da fare. Quando mi ha detto di Italo, il mondo è realmente crollato. È un modo di dire, però spiega bene come mi sono sentito. Mi sono piegato come se sulle spalle avessi tutto il peso che c'è e mi si sono bagnate le guance. Per fortuna non sono uno che sta tanto tempo a piangersi addosso, è solo il necessario per capire come uscirne. E allora mi sono messo a pensare a cosa avrei potuto fare per averla tutta per me. Sì, io non mi perdo d'animo, figuriamoci poi per un Italo qualunque. Io lo so come si fa a farsi desiderare da una donna, ho letto un sacco di libri, ho visto un sacco di film. E allora mi sono messo lì a fare un elenco di idee geniali per conquistarla. Ho cominciato iscrivendomi a un sito americano che spiega delle tecniche speciali. Lo sapete, no? Che loro hanno un manuale per tutto. Come farsi degli amici, come diventare manager, come diventare alto, su tutto. Però questo sito mi prometteva che avrei avuto risultati solo dopo un corso di 30 giorni e io tempo non ne ho. Ho dovuto ripiegare su strategie più consolidate. Qualcosa che conoscessi già, insomma. Ho pensato, per esempio, a simulare una malattia. La compassione è sempre un motore fortissimo per una donna. La frattura di una gamba con un gesso finto può essere già una buona idea. Oppure posso lavorare su qualcosa di più grave, magari di più misterioso, no? Che necessiti del suo aiuto per trovare una cura. Che so, tipo l'olio di Lorenzo. Oppure no, lasciamo perdere la malattia. Ecco cosa potrei fare. Potrei fingere di avere un figlio di cui mi occupo da solo, con enormi sacrifici, perché sono rimasto vedovo. Cosa che però non l'ho mai confessato, per non farle pesare la mia condizione di giovane padre premuroso e solitario, forte ma un po' sfortunato. No, però non saprei, perché invece a volte le donne perdono la testa per gli uomini molto decisi, disinvolti, a volte un po' stronzi. Quindi potrei cercare di farla ingelosire, mostrandole che di lei non mi importa nulla, giusto? Sì, potrei fare in modo che mi incontri mentre sono in felice compagnia di una donna bellissima. La saluterei sorridendo e presentandole questa mia amica, chiedendole dove sia Italo. Come farebbe a non cadere tra le mie braccia? Oppure, se non funziona, potrei rifugiarmi nel buon, caro, vecchio filtro d'amore, quello di Shakespeare, quello del sogno di una notte di mezz'estate. Glielo faccio bere e arrivederci, mia per sempre. Insomma, queste riflessioni stavano procedendo e stavo ormai fantasticando su una sedia a rotelle spinto da un'infermiera bellissima mentre tenevo in mano un calice di succo della mandragola e nell'altro un neonato, quando proprio in quel momento ho capito che stavo sbagliando. Cioè che non era quello il punto. Che lei in fondo è già innamorata di me. Il problema è un altro. Il problema è Italo. È lui che deve scomparire. Questo mi ha fatto sentire un po' meglio. Non dico che ho pensato di tirarlo sotto con la macchina, perché non è vero, e comunque anche se lo fosse non ve lo direi, ma è evidente che dovrò fare qualcosa perché lei lo lasci. Gli troverò il difetto, ecco cosa. Lo tampinerò e capirò qualcosa che lei non sa. Gli mostrerò che essere abietto lui sia, e Natalie lo mollerà e verrà da me. Il piano è semplice. Dovrò cominciare col capire chi è Italo Cambi. Mi sono messo a cercare. Scoprire che di Italo Cambi ce ne sono un discreto numero e che la maggior parte è gente normalissima e apparentemente per bene mi ha demoralizzato un po', ammetto. In effetti speravo che Google avesse un algoritmo che selezionasse quello giusto, ma forse gli ho chiesto troppo. Dopo qualche ricerca, tuttavia, l'ho rintracciato. Con mia grande gioia, ho scoperto che fa un lavoro che mi aiuterà moltissimo. L'agente immobiliare. Splendido. È come il venditore. La gente ha un po' di tempo libero, non lavora in ufficio, ha una possibilità infinita di nascondere seconde vite. Inoltre i venditori devono avere una naturale propensione alla menzogna, o perlomeno a raccontare cose in cui non credono completamente. Mettere Natalie il tarlo del dubbio su di lui, sì, sarà facile. Devo solo trovare qualche indizio utile. Però devo conoscerlo meglio, se voglio che lei lo lasci. Dovrò diventare suo amico su Facebook, ad esempio. La capacità che ha Facebook di creare malintesi e provocare problemi è altissima. Credo che sia il modo migliore per capire chi sia veramente Italo e per metterlo in difficoltà. E mentre ragionavo su tutta sta roba, ero già molto fiducioso e stavo per cliccare su "Vuoi diventare mio amico?" quando ho capito l'errore gravissimo. Non ero io che dovevo diventare suo amico. Dovevo inventarmi un altro profilo. Devo essere insidioso e malefico, ho una missione da compiere, ci devo pensare con calma. Natalie capirà. Anzi, Natalie non saprà mai nulla. Questo è l'amore, no? Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon, angels. How long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she'll wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there is nothing I can do. Well, there is no way to say, and there is nothing I can do. Well, there is no way to say, and there is nothing I can do. No way to say, and there is nothing I can do. 800240024 349 238 6666. Sono arrivati messaggi riguardo gli evaporati che mi chiedono di più. Non saprei dirvi esattamente dove trovare. Questo era un articolo di Internazionale di almeno 2 anni fa, credo. E poi è arrivato un messaggio che dice: io sto per evaporare, saluterò tutti e mi creerò una nuova vita. Mai più contatti con i miei cari. Pubblicherò il mio diario quotidiano su un blog. Però non si firma, non ci lascia riferimenti, insomma, facci sapere qualcosa di più magari. Ovviamente non ti diamo fastidio. 349-238-6666. C'è un altro passaggio che riguarda proprio questo aspetto degli evaporati, su quello che loro vanno a fare, perché l'autore dell'articolo va in uno di questi centri termali e incontra il direttore del centro. Gli dice che il direttore è orgoglioso del suo tempio del benessere, ci tiene a farmelo visitare personalmente. È molto elegante, molto rigido, mi offre un tè. A un certo punto mi tocca scuoterlo per attirare la sua attenzione. Le è già capitato di avere a che fare con gli evaporati? Il Terry rischia di andargli per traverso. Evaporati nel mio albergo? Gli chiede. Fa fatica a riprendersi, poi dice lentamente: in effetti spesso vengono delle persone sole, in crisi con la famiglia. Lasciano la loro casa e non sanno dove andare. Il vantaggio di essere qui è che non si rischia di incontrare conoscenti. Siamo aperti 24 ore su 24. Quali sono le loro storie? Non lo so, non mi interessa, risponde. Si alza, si sistema il vestito e conclude: quel che è certo è che siamo una buona soluzione per le persone in difficoltà. Andatevelo a cercare su internet se vi interessa, comunque c'è dell'altro materiale. Invece parliamo delle seconde vite, perché delle doppie vite, perché ce n'è diverse. Faccio il naturalista di giorno, il free climber nel resto del tempo. Uno stile di vita, Marcello da Bergamo. Ieri ho visto un'intervista a Manolo, che era quello che faceva il free climber, e devo dire che più che un free climber è un filosofo. Andatela a vedere perché è un personaggio incredibile. È la prima volta che mi metto ad ascoltare la vostra radio, eccetera eccetera. Collaboro con un'agenzia immobiliare e faccio tatuaggi e disegno. Gli agenti immobiliari qui vanno alla grande. Ce n'è un altro anche che dice: sono un consulente immobiliare e il cantante lirico Giuseppe. Cuoco di giorno, cantautore di sera, fino alle 2 del mattino di pomeriggio. Papà di due bambini, va bene, vabbè, la doppia vita dei genitori e non, quella la sappiamo. Invece abbiamo arrivato un messaggio su Facebook oggi di Liliana, che scriveva: quasi ogni giorno dal cantiere, in cui tra pennelli e cazzuole mi dedico alla decorazione e al restauro, al computer per fare post produzione o alla telecamera per andare a fare qualche intervista o ripresa. Pronto Liliana? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, direi, sto lavorando. Che cosa sì. Quale dei due stai facendo adesso? Adesso sto facendo il restauro. Per la precisione sto attaccando, vabbè, così per modo di dire, la foglia d'oro zecchino su una serie di candelabri in legno. Wow. Che sono il corredo di una chiesa, perché io negli ultimi 6 anni spesso lavoro nelle chiese e spesso ti ascolto dalle chiese. Come, non sei la prima tra i restauratori che ascolta? Ma scusa, in chiesa cosa ti fai? Ti porti una tua radiolina, ovviamente? Sì, ovviamente non durante la messa, è ovvio. No, beh, però certo, durante il lavoro. Messa, sì, perché le chiese spesso sono chiuse. Senti, Liliana, ma facci un piacere, visto che già lo chiedo agli altri ascoltatori, perché non scatti una foto di dove sei e ce la mandi? Adesso? No, beh, dopo che ci siamo salutati. Ma perché adesso io non sono in chiesa, sono a casa, perché fuori c'è la neve, c'è freddo e quindi adesso è impossibile riuscire. Dove abiti, Liliana? Guarda, io abito a Parma, però per lavoro sono nell'entroterra di Genova, per la precisione a Santo Stefano d'Aveto, e quindi sono a 1200 metri. Senti, invece il secondo lavoro? Il secondo lavoro è arrivato 6 anni fa, quando ho conosciuto il mio attuale compagno, che mi ha letteralmente attaccato alla passione per la produzione video. E quindi io, già che ero appassionata di fotografie, ho iniziato a fare riprese, inizialmente dandogli una mano, e poi adesso lavorando proprio è diventato quasi un secondo lavoro. Dimmi l'ultima cosa che hai fatto, Liliana, in post-produzione. Guarda, ho fatto un filmato, se si può definire istituzionale, per una grande azienda che lo doveva mandare per un meeting. Perfetto, questo direi che è ufficialmente una doppia vita. Liliana, ti ringrazio molto. Mandaci grazie la foto, te, mi raccomando. Grazie, ciao, alla prossima, grazie. La borsa, e dopo Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo a Torino. Lo si capisce perché la protagonista della foto è la Mole. La Mole Antonelliana, ovviamente, per chi non lo sapesse. È sera, o l'alba forse, è al momento in cui comunque la luce se ne sta andando o sta arrivando. La luce è alle spalle della Mole, che è illuminata e che ha proiettata, come usanza negli ultimi anni, sulla parete, non so quale, però su una delle pareti della Mole Antonelliana, ha proiettata un'immagine. In questo caso l'immagine è la foto di un gruppo di studenti che tengono in mano uno striscione con scritto "Non rubateci il futuro". E dalla prospettiva da cui è scattata la fotografia, direi che è stata scattata da un tetto. Matteo Giudice, 19 anni, Facoltà di Scienze Politiche. Dal tetto di Palazzo Nuovo occupato vedo le immagini proiettate sulla Mole Antonelliana da Gianni Amedio, direttore del Torino Film Festival, in segno di solidarietà con studenti e ricercatori. Io sono qui. Dal tetto del liceo occupato, ho perso un passaggio, dal tetto di una scuola occupata, comunque mi è sembrato di capire. L'occupazione, che grandi momenti. Paolino, occupazione e, come si chiamava l'altra, autogestione. Autogestione. L'unica differenza è che l'occupazione stavi lì a dormire, con l'autogestione no. Enrico, eterosessuale sul lavoro e gay nella vita di tutti i giorni. Chiara, da lunedì a venerdì, bancaria, nello specifico gestore di imprese, nel weekend fotografa e grafica. Ma ce n'è una marea, il mio preferito, devo dire, per lo stile, per lo charme, è Luciano di Napoli. Esercito la professione di dottore commercialista, ma appena posso mi piace ballare salsa cubana, concentrarmi nel bricolage e andare in moto. Luciano, sei il migliore. Programmatore web e padre di giorno, disegnatore di tatuaggi su internet di notte, ancora. La mattina help desk per PC, il pomeriggio addetto zoo con gatta, pesce e tartaruga. La sera, se capita, giocoliere. Ciao Chicco, sono veterinario e musicista, Tommy. Poi ce n'è uno molto bello per il profondo, per la misantropia che nasconde. Tutti i giorni entro in scena e vado a dirigere un locale con 30 dipendenti e centinaia di clienti, sempre sorridente, sempre frizzante e con grande successo. Tre giorni a settimana insegno in scuole private il mio mestiere, organizzo eventi per far divertire la gente, ma in realtà sono un clown misantropo che non sopporta l'umanità, che quando torna a casa spegne i telefoni, adora la solitudine e passa le vacanze alla ricerca del silenzio, carpendo energia dalle foreste. Detto così, mi ricordi It e un pochettino mi fai paura. Andiamo però subito da qualcuno. Prima ho letto un SMS che diceva: è la prima volta che ascolto, collaboro con un'agenzia immobiliare e faccio tatuaggi e disegno. Gianmario, pronto? Sì, ciao. Ciao Gianmario. Buonasera. Buongiorno a te. Dove sei? In un sottoscala? No, sono in una pizzeria che sto disegnando la vetrina per il momento. Ok, perché tu... un logo un pochino piccolino. Che cosa stai disegnando sulla vetrina? Ha aperto una pizzeria di recente, quindi sto facendo l'insegna pubblicitaria che si vedrà da fuori. Ma con che cosa? Con olio? Sono dei colori apposta per il vetro, di quelli trasparenti comunque, che colorano ma lasciano trasparire all'interno. Ho capito. Senti Gianmario, tu sei consulente immobiliare, cosa vuol dire che fai l'agente immobiliare? Sì, lo faccio ma non lo sono. Cioè, nel senso, proprio una specifica diversa. Non sono iscritto all'albo, però collaboro con agenzie immobiliari e sì, siccome adesso il mercato è un po' così. Sì, così, sì, sì. Senti, invece, dimmi dei tatuaggi. I tatuaggi li fai dove? In uno studio, in casa tua? No, li faccio in giro. Sì, non ho uno studio perché non ho ancora la possibilità di aprire okay. I tatuaggi miei, quindi vado in giro, chi vuole, io anche. Gianmario, sei un abusivo per tutto. Non va agente immobiliare, non c'hai la licenza. Il tatuaggio, non c'hai la licenza. Assolutamente sì. Sei un disperato, Gianmario, ma benvenuto nel club. Grazie mille. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Grazie anche a te. Andiamo a Brescia da Stefano. Pronto, Stefano? Buonasera. Eccomi qua. Come stai? Abbastanza bene, dai. Oggi è una giornata tranquilla. Sono in giro per clienti. Che cosa fai? Qual è il tuo primo lavoro? Il mio primo lavoro è assistenza tecnica, informatica, sviluppo, programmazione, cose di questo genere. Guarda, ne hai dette talmente tante che non ci ho capito niente, però informatica più o meno. Informatica, esattamente. Ma per chi? Chiaramente per aziende? Sono in proprio, anche perché la mia seconda vita mi ha obbligato a essere in proprio. Cioè? Cioè, purtroppo ogni tanto mi squilla il telefono, una volta magari ogni 2 o 3 mesi, e mi dicono parti. Io prendo, parto e dove non vai? So anche dove devo andare. A volte mi possono mandare a Roma, a Torino, all'estero. Vabbè, ma fare cosa però, Stefano? Non a mettere bombe? Può anche capitare quello. Ma in realtà sono una controfigura, cioè per l'esattezza sono uno stunt. Quindi mi chiamano là dove ci sono da girare delle scene nei film. Quindi cadi? Posso cadere, posso andare a fuoco, posso combattere, posso farmi male più o meno per finta, quindi per i miei clienti sono semplicemente il tecnico che gli ripara il computer, però quando squilla quel telefono parto, mollo tutto, posso stare. Cioè, ma è proprio un telefono dedicato, come il telefono rosso di Batman, quello che quando suona è che c'è un problema. Più o meno, il numero è sempre Wolf. Quello, però c'è l'SMS. Dai, dimmi un film che hai fatto, che ho visto, e in cui ti ho visto. Allora, un film che sta per uscire, un film che ho fatto. Per quanto riguarda quello che ho fatto, King Arthur della Touchstone Picture con Clive Owen. Ma roba seria fai, Stefano. E cosa hai fatto in King Arthur? In King Arthur sono uno dei cattivi. Principalmente avevamo scene di battaglia, niente di particolarmente pericoloso. Ma hai fatto una scuola per fare lo stunt? No, faccio parte di un team che si chiama Fratellanza della Spada e da diversi anni, quindi sono quasi 10 anni. Beh. Però non esistono scuole autorizzate a fare cose del genere. Ci perché, tra l'altro, fammelo dire, non provate a fare a casa quello che fa Stefano, è uno stunt professionista. Decisamente. decisamente no. Grazie mille. Grazie mille Stefano. Ciao, alla prossima. Andiamo da Salvatore a Treviso. Pronto? Ciao. Ciao Salvatore, cosa fai tu? Io faccio il camionista. Ok, quindi ci ascolti dal camion. Un giorno mi sono stufato di fare il camionista, ho detto cosa devo fare. Bah, mi metto a studiare. Riflessologia plantare. Riflessologia plantare? Sì, 3 anni di riflessologia, però i risultati che avevo erano lunghi, ci vogliono 8-10 sedute per avere dei risultati. Se non che mi cerco qualcosa più immediato. Osteopatia, 4 anni di osteopatia. Un bel lavoro. Però mi prendeva fino a mezzanotte, l'una di notte, una roba assurda. Certo. Un giorno mi fermo a riflettere, ho detto, ma ho 50, 52 anni, ma chi me lo fa fare? Se non c'è, ho detto, quando, mentre lavoravo su per i miei clienti, che si chiamano clienti e non pazienti, sì. Mi venivano in mente tutte le città del mondo, dell'Italia. Questo e quello, il Monviso, un po' di tutto. Un bel giorno sai cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Ho chiuso tutto, sono rimontato sul camion e chi si è visto si è visto. Salvatore, grazie mille, buon viaggio, ciao, grazie. È arrivato un altro messaggio che dice venditore bugiardo di giorno, arbitro inflessibile di sera. E poi questo, Vito da Crema, io leggo in chiesa il Vangelo, no, aspetta, io leggo in chiesa il Vangelo eccetera, cioè il Vangelo è tutto quello che capita. Ma non si legge solo il Vangelo. Ah, giusto, tutte le letture. Beh, ma tutte le letture sono. Ah, no, no, no, certo, no, il Vangelo è una cosa, le letture sono un'altra, perdonami. Io leggo in chiesa il Vangelo, eccetera. E poi faccio sicurezza. È un posto dei due, ogni tanto devo benedire qualcuno. Ah, vabbè, ok, il messaggio è chiaro. Sono bancario e allenatore di beach volley, campione Italia del 2010. Roberto, monaco di giorno, marito di sera. Questa è una battuta. Monaco di giorno, martedì sera. E andiamo a un altro. Eddie da Roma. Pronto, Eddie? Pronto, Eddie? Eddie, devi spegnere la radio perché altrimenti mi risento la eco. No, siccome stavo guidando e allora non posso stare col telefono attaccato. Dimmi qual è il tuo lavoro. Ciao, Eddie. Il mio vero lavoro non te lo posso dire. Comunque è in un posto statale. Perché non me lo puoi dire? Scusami. Non te lo posso dire perché ti ho chiamato per due motivi. Uno, perché mi fa compagnia mentre sto guidando tutte le sere, tutti i pomeriggi. Quando sei in macchina metto Radio 24. Bene. Mi fa piacere. E l'altro? Aspetta, che mi sono trovato in questa trasmissione che mi ci sono riconosciuto. No. L'altro non l'altro motivo. L'altro è, insomma, sei un impiegato statale. Poi l'altro lavoro? L'altro lavoro è che io... è una cosa normale in realtà, però la cosa particolare è questa, che io per quasi 20 anni ho fatto, posso dire, una piccola provaccia. Dipende... Vabbè, dai, ho fatto il coglione per 20 anni, okay. Di mattina, mentre in realtà mi trasformavo la sera. Io sono quello che ha portato lo swing dance in Italia, a Roma. E quindi ormai chi ascolta radio mi avrei riconosciuto, perché ovviamente... Perché lo swing dance... Guarda, Eddie, ti ringrazio moltissimo che devo chiudere. Ciao e buona giornata. Okay. Grazie, ciao, alla prossima. Niente, volevo sentire Marino e Salvatore, ma non ce l'ho fatta. Però li ringrazio lo stesso, ringrazio anche quelli che hanno scritto questi messaggi, tipo mattina guida al museo archeologico, pomeriggio promotore finanziario. Grazie a Marco che mi ha dato questo messaggio, a Vittorio Mussini, a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?